Vi chiedo subito cosa per voi vuol dire montagna sognata. Io mi chiamo Andrea Berardi. Secondo me la montagna sognata significa vivere di sogni. I sogni delle persone. La montagna, perché lo facciamo in montagna, con le persone che vivono in montagna. Andrea, sei pronta? 3, 2, 1. Il mio progetto? Se si può presentare. Certo, allora io mi chiamo Giulia Dai Campi e sono stata per 12 anni la titolare di un negozio di abbigliamento a Folgaria che si chiamava Cucù Boutique. Ho due figli, Jacopo e Alice, che voi conoscete, che hanno abitato qua tantissimi anni e adesso ci siamo trasferiti a Rovereto. Io ho 44 anni, attualmente faccio l'insegnante alla scuola primaria, quindi alle elementari. Ho fatto nella mia vita 5 lavori, questo è il quinto, in una scala di... Non ci sono delle priorità, mi sono piaciuti tutti tantissimo. Quello che è durato di più per ora è quello, che mi avete chiesto di presentare oggi ed è quello legato al mio lavoro imprenditoriale sull'altopiano. Come hai iniziato le tue attività? Allora, la mia attività imprenditoriale è cominciata con un sogno, una passione. Non avevo studiato per fare la titolare di un negozio di abbigliamento e quindi è cominciato proprio con una voglia di provare, di buttarmi in questa nuova avventura. Quindi con una passione per l'abbigliamento. Secondo lei si vive di sogni? Allora, si vive di sogni? Questa è una bella domanda. Si vive di sogni e di concretezza. Cioè, io sono convinta che per cominciare un'avventura lavorativa ci voglia un sogno, una passione, perché in questo momento il sogno e la passione sono la motivazione che ti spinge a fare bene e ad avere successo, credo. Dopo ci vuole anche la concretezza, questo sogno deve essere collegato alla pratica, alla concretezza di poter essere realizzato. E quindi, se faccio un esempio, credo che se io mi fossi trovata 12 anni fa a Rovereto ad abitare, non avrei aperto un negozio. Quello era il mio sogno, ma l'ho potuto realizzare perché abitavo qui, quindi una realtà piccola, dove conoscevo tutti, dove la base di partenza era comunque una comunità che già mi voleva bene e quindi ho potuto crearmi questo piccolo negozio. Se avessi abitato a Milano, questo probabilmente non avrebbe potuto accadere. Per questo dico che sicuramente una passione che deve essere però legata a una cosa un pochino più concreta. Quali sono state le aspettative? Allora, quando ho aperto, le aspettative erano abbastanza alte, non altissime. Mi sarebbe piaciuto un negozio normale, di paese dove io lavoravo tranquillamente, senza troppo stress, un'attività tranquilla. Ecco, quindi erano aspettative alte ma non altissime. Non avrei mai pensato di arrivare al successo a cui sono arrivata, quindi le aspettative erano più basse rispetto poi ai risultati che ho ottenuto. Ecco, quando io ho aperto 12 anni fa, Alice, la mia più piccola delle due, aveva un anno e giocavamo sempre al gioco del cucù. E quindi, siccome allora vendevo anche vestiti da abbigliamento da bambino, ho deciso di chiamarlo così. Ecco, il negozio di abbigliamento, chi è rivolto? A chi era rivolto? Era rivolto ai bambini e alle loro mamme. Sono state le difficoltà anche in riferimento al genere, agli stereotipi. Cosa significa aprire questo tipo di attività essendo donna a Folgaria? Allora, io ho scelto un'attività che nell'immaginario comune è prettamente o comunque legata molto alla femminilità. Cioè, è difficile che troviate un uomo che si sveglia la mattina e decida di aprire un negozio, anche perché sono cambiate le cose, forse di più adesso di quando ho aperto io, nel senso che adesso si lavora tantissimo anche con tutto l'abbigliamento di tipo montagna, sportivo, è più facile trovare degli uomini. Quando ho aperto io 12 anni fa non c'era ancora tutto questo mondo tecnico, diciamo, tra virgolette, e quindi quando ho aperto io l'abbigliamento, uno che apre un negozio di abbigliamento è sempre stato legato alla femminilità, alla donna, quindi non ho fatto fatica a livello di stereotipo di genere, no. Ho fatto più fatica ad essere riconosciuta come donna dal punto di vista, per esempio, della sicurezza sulla contabilità, sulla burocrazia, quando dovevo andare a fare delle scelte, per esempio contabili, se fare, perché ci sono delle legate all'apertura di un negozio, ci sono chiaramente tutte delle cose che non sono solo metto i vestiti in negozio, ma quanti ne compro, cosa compro, dove li compro, quanto posso spendere. Non è che posso comprarne sempre 100, magari posso comprarne 10. E questa parte più contabile, più burocratica, invece nello stereotipo, diciamo, di genere, è più legata all'uomo. E quindi, almeno questo era tanti anni fa, allora quindi ho fatto un pochino più fatica. Dopo, in realtà, con gli anni ti viene riconosciuta una certa dimestichezza. Quando bene bene ho imparato il lavoro, sono riuscita poi ad essere riconosciuta anche in quest'ambito qua. Perché è più, diciamo, caratterizzante il genere maschile la capacità imprenditoriale di fare delle scelte miranti, no? O a breve e medio termine? Perché dietro all'abbigliamento femminile c'è un mondo maschile che nessuno conosce. Quando si va negli showroom, perché l'abbigliamento ha una filiera lunghissima prima di arrivare in negozio, quando si arriva ad acquistare la merce all'ingrosso, si dice, è prettamente maschile quella parte lì, anche nell'abbigliamento femminile. Ce l'ho fatta con tantissima forza in me stessa, nel senso che non mi sono mai lasciata... Dimmi? Autostima. Autostima, bravissimo. Autostima, motivazione, perché siccome si innesca, no? Si innesca un meccanismo, per cui io all'inizio avevo paura, avevo chiaramente un'agitazione incredibile ad andare ad acquistare, ero anche giovane, ad andare ad acquistare le cose, quindi mi preparavo dei fogli con dei conteggi, arrivavo con una calcolatrice, arrivavo con degli strumenti che mi davano sicurezza. Questo è successo i primi 5 anni, e quindi mi facevo forza con delle strumentazioni che servivano a me per essere più sicura. Questo mi ha dato l'opportunità, chiaramente, di aumentare la mia autostima, come dici tu, perché andavo in questi magazzini, in questi luoghi, con tutta la mia strumentazione, e vi assicuro che quando arrivavo di fronte a questi uomini che allora cosa acquista lei, allora ha un budget, mi dicevano. Sapete cos'è un budget? Sì, un limite di soldi che puoi spendere. Sì, certo che ce l'ho, me li preparavo, me li scrivevo, perché se io fossi arrivata lì solo con un'insicurezza, cioè con l'idea di dire posso spendere 4, posso spendere 5, ma non lo so, forse anche 10, loro avrebbero potuto innescare in me un'insicurezza, cioè non ero più sicura di me stessa, capito? Quindi con tutte queste strumentazioni i primi anni andavo a fare gli acquisti e mi sentivo più sicura. Dopo, pian pianino, cosa è successo? Che arrivavo a casa, avevo le mie cose venivano vendute, piacevano tantissimo, si innescava un sistema per il quale avevo una soddisfazione enorme, perché venivano da Padova, venivano da Milano, venivano da lontano ad acquistare proprio da me a Folgaria, e quindi innescando questo meccanismo l'autostima aumentava in maniera esagerata, e io pian piano ho fatto a meno di tutti i miei strumenti di sicurezza, perché comunque l'autostima è stata sufficiente e mi ha equilibrato, no? E quindi venivo poi riconosciuta, cioè oltre all'autostima che aumentava, quando arrivavo in questi luoghi, siccome compravo sempre di più, perché qui le cose funzionavano e quindi si faceva sì che io potessi comprare, il budget aumentava. E gli uomini che avevo di fronte avevano di fronte una donna di successo, una donna che riusciva nel suo lavoro e di conseguenza dovevano per forza essere anche loro alla mia altezza e quindi si è innescato questo meccanismo per cui poi insomma sono riuscita anche a alleviare le mie insicurezze. Di quale tema stiamo parlando qui? Che cosa abbiamo intercettato? Della discriminazione. Bravo. Discriminazione attuale. L'importanza delle donne. Pari opportunità. Dicendo pari opportunità, che cosa vuoi esprimere, Luca? Che tutti possono fare il lavoro, cioè un lavoro. Cioè sì. Non è che lo può fare solo un uomo al posto che una donna. Che non ci sono lavori per maschi e per femmine. Ma l'esperienza di Giulia cosa ti racconta invece? Che una volta, cioè, a vendere vendevano le femmine, ma a tipo far contabilità, quelle robe lì, c'erano gli uomini, ecco, matti, quelle robe lì. Giusto Mirko, stiamo parlando di 10 anni fa però. Gli uomini venivano calcolati i migliori imprenditori in confronto alle donne. Economisti, magari. Ecco. Io credo che sia importante sapere che nonostante siamo nel 2022, le donne in alcuni campi, mica in tutti, devono comunque dimostrare sempre tutto. Non è dato per scontato che sappiano fare quel lavoro lì, quella mansione lì, che si prendano del tempo per lavorare bene, ma devono saperlo sempre dimostrare. Questo è quello che è successo a me. Come vede il futuro? In generale? Pensa di cambiare nuovamente il lavoro o di tenere il suo, quello che fa adesso, l'insegnante? Allora, io sono convinta di una cosa, che è quello che poi sto cercando di insegnare ai miei figli, e cioè che nel 2022, negli anni a venire, io sono convinta che non si possa avere un lavoro solo nella vita. Ma perché? Perché la vita è lunghissima, ed è possibile avere tantissime esperienze che siano come una scatola dalla quale poi la prima esperienza te ne porta un'altra ancora e poi avanti così, ma anche proprio per una questione di studi. Io leggo molto, adesso per esempio ho deciso di fare l'insegnante della scuola primaria e sto studiando all'università psicologia cognitiva intanto che lavoro, perché mi interessa capire di più di quello che vado a fare. Quindi credo che ci sia proprio, glielo dico sempre anche a Jacopo e Alice, una bella scatola. Tu parti delle tue prime esperienze, io ad esempio ho avuto un vecchissimo diploma magistrale nel 98, ho fatto quel diploma lì e dopo non l'ho mai usato, mai, un diploma professionale che non ho mai utilizzato. Poi sono venuta a abitare a Folgaria per ragioni d'amore, che so che queste cose vi piacciono. Mi sono sposata qui, ho avuto i miei figli e nel frattempo che mi sono sposata ho lavorato 3-4 anni al museo, al MART di Rovereto, a fare i laboratori ai bambini. Facevo le visite guidate, quindi anche lì studiare tutte le mostre che dovevo insomma poi spiegare a voi, ecco, perché venivano le medie, venivano le elementari. Poi da questo sono arrivata la creatività, la voglia di mettermi in gioco, ho capito che avevo delle potenzialità, perché quando facevo le visite guidate da sola di fronte a tutti questi ragazzi ho capito che forse valevo qualcosa e quindi ho deciso di aprire questo negozio che nasceva da una vecchissima passione che ho sempre avuto per l'abbigliamento. Adesso, siccome ti dico la verità, io mi ritengo una ragazza molto fortunata, una signora fortunata, perché ho potuto cambiare nella vita tante volte. Non è per tutti, cioè magari uno poi è obbligato a stare in un posto per tante ragioni, anche proprio pratiche concrete. Io sono stata molto fortunata e questo mi ha dato tantissimo. Il futuro come lo vedo? Allora, proprio perché non credo che esista un lavoro solo nella vita, penso che il futuro sia fatto di tante esperienze che noi dobbiamo fare nostre e dalle quali dobbiamo partire per creare proprio delle nostre professioni, ecco. Questa è un po' la mia storia, questo è un po' quello che sono io. E qui a Folgaria è stato bellissimo, sono stati 12 anni stupendi in cui io sono cresciuta professionalmente perché appunto prima la mia autostima era zero e poi pian pianino con il successo, no? Che però mi hanno dato gli altri, perché secondo me questo è importante focalizzarsi, cioè i clienti, chi veniva nel mio negozio mi ha dato talmente tanto che io ho potuto poi crescere dal punto di vista professionale. Sono arrivata ad oggi che mi sono sentita stanca. Stanca perché ci sono, lo dico, cioè inutile nascondersi, penso che bisogna essere concreti, troppe spese. Non si può più avere dei collaboratori, ad esempio. A me è sempre piaciuto tantissimo dare lavoro agli altri, poter avere qualcuno con cui confrontarmi. Quindi avere persone che lavoravano con me, e adesso purtroppo questa cosa non è più possibile perché costa troppo avere dei dipendenti per le attività piccole come la mia. Cioè tutti questi pensieri mi hanno fermato, ho dovuto concretamente fare i conti, come dicevamo prima, siccome nell'imprenditoria uno più uno deve fare tre perché deve avanzarne uno per te, quell'uno lì non avanza più. Ho dovuto decidere di chiudere, però prima di chiudere mi ero già creata un'altra strada, perché sono 2 anni che insegno. Quindi una cosa che dico sempre anche ai miei figli è mai chiudere senza sapere dove andare. Prima bisogna sapere dove andare, crearsi un'altra esperienza, ma concretamente anche. E dopo, pian pianino, chiudere una scatola e aprirne un'altra. Un messaggio che vuole dare, qual è un messaggio che vuole dare ai ragazzi? A noi ragazzi. Ah, una cosa che vi avrei detto prima di andare via è mi raccomando di avere sempre delle competenze. Cioè, voi potete fare tutto nella vita, ma tutto, veramente tutto. L'importante è studiare per farlo. Lo so che ad oggi mio figlio si gira dall'altra e voi lo farete uguale. Però negli anni della mia vita io ho capito che senza studiare, anche poco, cioè non è che vi sto dicendo che uno deve fare 10 anni di università, però qualsiasi lavoro al giorno d'oggi ha necessità di competenze. Cioè tutti dobbiamo conoscere quello che poi andiamo a fare, se no non che la femme.